Buongiorno, anzi buonasera a tutti e tutte, zona rossa del 6 di gennaio 2021, ormai sono le 18:41, puntata veramente atipica di zona rossa perché sono drammaticamente da solo, non c'è nessuno in radio con me, quello schifoso di Lorenzo è a lavorare, o almeno così dice, Cigo è a casa sua, la direttrice ci ha abbandonato, Tommaso Russi chissà dov'è e Riccardo Badagliacca non pervenuto, per cui vi annoierò a morte con la mia tremenda voce. Nel frattempo devo cercare di fare più cose contemporaneamente, tipo mettere la sigla, e la sigla devo metterla da qui, se no non la trovo, e quindi cercherò di annoiarvi a morte, non riesco a fare due cose insieme, per cui se parlo e scrivo, non ce la faccio insieme. Ok, facciamo partire la sigla di sottofondo, dicevamo, vi annoierò a morte con la mia voce orrenda e soprattutto cercherò, di farvi ascoltare della buona musica ovunque essa sia. Per cui ci saranno telefonate e richieste musicali per darmi una mano in questo momento, ma insomma si va un po' così a braccio e a tentoni per questa volta. Torniamo sulla 12J, facciamo dissolvere questa traccia dei Red Hot Chili Peppers e salutiamo il solito Mick Gordon con la traccia poco poco tamarra, The Only Thing They Fear Is You, presa dal bellissimo videogioco Doom Eternal. E torniamo on air, salutiamo il carissimo Amedeo che è qui con noi. Amedeo, vuoi dire qualcosa ai fantastici microfoni di Radio ZM per caso? Sei occupato. Amedeo è preso, ci sta cercando di stabilire connessioni elettroniche multiple e svariate in quel di Zam. Salutiamo il carissimo Amedeo che è qui con noi. Amedeo, cosa sta succedendo? C'è un problema evidentemente derivante da questo. Avevo messo sul player del mio telefono la radio, Radio ZM, e questo quindi stava riproducendo me stesso che parlavo pochi secondi fa. Pensate voi che storia. Detto questo, dato che sono da solo, potete aiutare a condurre questa puntata, che sarà molto difficile, molto lenta e molto noiosa. Potete farlo scrivendo alla chat di Telegram, che è Radio ZAM-chat. Così scrivete direttamente, non scrivete tanto quella bestia di Riccardo che lo usa praticamente la chat di Telegram della radio per i suoi appunti personali, scrivete direttamente a me e mi dite quanto faccio pena. Detto questo, potete anche suggerire della musica, potete anche suggerire chi chiamare, potete anche suggerire cosa fare. Noi quindi procediamo con la prima chiamata, sperando che qualcuno là dall'etere mi aiuti, ci aiuti a rendere tutto un pochino più semplice, e andiamo subito. Qua la gente lascia la porta aperta, perché giustamente che problema c'è? Ah, sei qua ancora? Alle mie spalle. Tanto ha lasciato la finestra aperta, adesso io congelo, ma va bene così. Forza Cigognetti, forza Cigognetti, ti vogliamo con noi. Buonasera. Buonasera. Ciao caro, siamo da soli su Radio ZM perché quell'infamone di Lorenzo ci ha abbandonato, e ci ha abbandonato anche Anita, e ci ha abbandonato anche Tommy, e ci ha abbandonato anche Fra. Per cui ora avrei un monologo da 15 minuti da riempire mentre io cerco e tutti fa l'audio che voglio mandare questa sera. Vai. Usti. Ah, quindi siamo in diretta. Sì, bravo. Siamo in diretta. Sì. E quindi, vabbè, possiamo fare l'angolo sportivo. Vai così con l'angolo sportivo. Milan-Juve. Attenzione. La parte popolare di Milano contro gli industriali torinesi della Fiat. Minchia, da voti sul politico, sei forte tu. Per forza, dai, facciamo più o meno i seri. Ci sta. Che c'è una tensione, io c'ho una tensione addosso che metà basta. La madonna, lo vedi così proprio... Con tifosi Zammini? Eh? Da ultimo dei tifosi caniti Zammini? Ma, sì. Tifoso di Duca che però è dell'altra sponda del Naviglio. D'altro, cioè, veramente orrendo, improbabile, schifosissimo. Come? Sei compagno e ti finta. Una contraddizione in termini, praticamente. Sì, per non dire che fai schifo direttamente proprio. Esatto, ma dopo lo diciamo che fa schifo. Sì, possiamo dirlo tranquillamente. E quindi niente, quale sarà l'argomento della serata? Io che non sono in nessuna redazione di nessuna radio. Ma bravissimo, quanto sei forte. Cigognini è lo stagista più forte del millennio, praticamente. Allora, qual è l'argomento di stasera? Stasera non c'è un argomento solo, perché finalmente una volta che ci siamo liberati di Lorenzo, possiamo finalmente avere più di un argomento. Quindi potrei farti scegliere una serie di temi che mi sono venuti in mente tipo adesso. Okay. Che se riesco anche a scrivere bene sul mio quaderno meglio, se no scrivo delle cose da illiterato ignorante quale sono. Allora, la prima domanda potrebbe essere tipo questa: stasera sono da solo a condurre, quando è quella volta che ti sei trovato da solo? Questa qua può essere molto profonda. Purtroppo. Questa, no, invece può essere molto figo, perché secondo me ci sarà una bella alternanza di vaccate clamorose. Perché la risposta può essere tipo 20 minuti fa, quando i miei sono usciti di casa, e io facevo butte cose nel bagno. Non è per niente autobiografico. Non è reale questa cosa. Sì. Ma potrebbe anche essere quelle cose invece molto molto profonde e serie. Tipo quella volta che i miei amici mi hanno lasciato da solo nella stazione del treno e io non sapevo come fare per tornare a casa. Esattamente. Quelle cose belle che capitano, soprattutto a te che sei una carogna, cigola carogna. Sì, io il più grande. Sì. Ma allora io qua sto avendo addirittura dei problemi con la tecnologia, nel senso che non riesco a trasportare delle fantastiche tracce nel nostro player, nel senso che... I vinili sono rigati? Sì, no, sai cos'è? Quella questione del passaggio tra il vinile e il digitale. Allora, sto digitalizzando dei vinili originali che erano all'ultimo piano del nostro archivio, ma non mi riesce... No, non sta funzionando. Per cui se vuoi, non so, parlarci di filosofia, raccontarci il concetto di solitudine in Kant. Grazie. Beh. Io che sono studiato e E non per quanto sei niente, ho iniziato studiato? ben due università senza mai finirle. Bravo, bravo, Beh, bravo, sono bene. 21 anni, penso possa essere un record Sì, questo. potrebbe essere un record. Possiamo dire che nel sistema kantiano la solitudine è vista come croce ed delizia della vita dell'uomo contemporaneo. Croce edilizia. Bello, Perché alla fine, bello. come il pesce rosso. Bello, bello, su questa parola io ti vorrei abbandonare tipo per sempre, Cigo, ma a questo punto tu mi puoi suggerire chi chiamare. Però me lo scrivi, così non lo sappiamo. Va bene, Mandami un io ti messaggio scrivo sulla subito. chat di Telegram, così facciamo pubblicità alla chat di Telegram. Attenzione, Ok. dove c'è della gente che ci ascolta, in realtà. Ok, ci dicono chi chiamare. Ok, mi dicono anche che domanda fare, perché c'è della gente che... Vuoi anche dirmi che parole si possono usare, Joy, per mantenere il focus? Oh, no, ho detto chi mi stava scrivendo. Ups. Vabbè. Ai. Esatto, vai Cicognini, usa la password della chat di Telegram, Radio Zam trattino basso chat, e scrivi così la gente la Aspetta che usa. non ho messo il via per scriverti in diretta. Bravo, bravo, scrivimi in diretta, beh, anche non scrivermi in diretta, dai. Fai una Ci bella sta. cosa, niente, scrivi. Ciao Cigo, è stato bello. Ciao Golle, ciao Ciao, Zanaruzza. ciao, ciao. Ah, vedo che proprio ti sei speso, grazie Cigo, ti sei speso molto bene per fare questa cosa. Hai scritto un nome di quattro lettere, che fatica che hai fatto. Va bene, vi salvo subito dalla noia della mia voce con questa canzone che fu già messa 2 settimane fa, ma è molto bella, per cui la rimettiamo. Ovviamente anticipo, l'ho rubata alle ribelli che ce l'hanno messa nella loro ultima puntata. Beccatevi DJ Graf, versi di passione. Nessuno deve lasciare questa stanza dopo di queste 2 ore. Bella cica, cica, stare bene. Arriva il bello, vai così. D'ammacata piace quanto piace a me. Senza doppi sensi fottere. Cazzo figa, culo tette. Giorno e notte, il letto contro il muro batte. È il tempo dell'amore. Il ritmo della giungla prende al cuore. Cosa c'è meglio di godere? Parlo di scopare. Lasciati guardare. Lascia che io veda quando sei bella nuda. Con tutta quella carne cruda che c'è a disposizione. Quale migliore occasione per fare un poco di capriole? Se vuoi col Kama Sutra alla mano, studiamo, ci imboschiamo. Insieme, oh lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con lascia che ti obbliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo, tu guardi me, io guardo te, un ballo virtuale tipo check, guardandoti vedo il sole. Se mi vuole, mi chiedo, gustando già il sapore delle sue labbra, mo' di cuore. Quanto sei buona, sei la mia ballerina, sei la migliore rima. L'immagine perfetta la mattina. E se ti metti così, io ti faccio così. E se ti piace così, vai così. Sì, capisce dal respiro che suona meglio di un fagotto. La melodia mi incanta e come un cobra, resto dritto. Solo per te, viaggio con te. So di te, t'amo più di quel che immagini te. È una chitarra vagabonda come Romeo. Suona nella notte per l'amore mio. Love, amore, amour, pronta per il tour. Per la fantasia vi ho il passepartout. Ma ora massaggiami la balla con cura. Finché quella faccenda si fa dura e vuole entrare dentro la fessura. Maiura, mi fai salire la temperatura. Mi droghi tutti i sensi, mi pensi. Ma quanto mi pensi? Resta tra i miei versi che poi ci si ritrova a dondolarsi. Su, giù, spingo io, spingi tu. E vai a star bene su sto funky. Lascia che ti obbligo. Con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me. Lascia che ti obbliterò, con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me. Lascia che io ti obbliterò, con valido l'amore dentro te, facciamolo, lascia che io ti porti via con me. Lascia che io ti obbliterò, con valido l'amore dentro te, facciamolo, facciamolo. Mi sono innamorata appena me l'hai fatta vedere, succede come nelle fiabe a casa. Segui la corrente sopra un fiume che ti porta al mare, sognare è naturale, la arrapamenta via la fotta, ti screccio tutta umetta, fammi sentire come Scott, lasciami gustare questa ebollizione a cui dedico i miei versi di passione. Vieni qui vicino a me, non mi lasciare mai, già sai che gli occhi tuoi danno vita ai miei, in una dimensione liscia strettamente personale, facciamoci sto viaggio interstellare a luci spente o accese, basta che mi fai annusare, visto che mi fai sballare. Lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che ti baci, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che ti baci, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. Lascia che ti baci, lascia che ti obliterò con valido l'amore dentro te, facciamolo. E lasciamo DJ Graf in questa morbidissima domenica, cioè volevo dire mercoledì 6 di gennaio 2021. Ripeterò in maniera ossessiva la data, perché ci siamo accorti, ascoltando le varie puntate di Zona Rossa, che molto raramente nei podcast si sente quando stiamo parlando. Quindi uno pensa che sia tutto quanto in diretta, poi a un certo punto la gente dice: uff, che caldo che fa, ma questo luglio è caldissimo. E quindi è meglio ripetere la data, così la gente capisce in che momento siamo dell'anno. Vedo che sono riuscito a fare una cosa meravigliosa da solo, incredibile, sono riuscito a mettermi la musica che volevo e a fargli pure il cambio di formato, perché passandola dal vinile al computer avevo erroneamente utilizzato un formato sbagliato che il nostro software non leggeva, ce l'ho fatta da sola, quindi si può fare. Lorenzo, che stai ascoltando, sei un maledetto decerebrato. Così, uno degli argomenti della puntata erano insulti a Lorenzo, adesso chiameremo altre persone e verremo a insultare anche a loro Lorenzo. Ci è stato indicato da qualcuno che chiamare, noi siamo persone che seguono attentamente gli indirizzi del popolo che ci segue, lo devo chiamare così perché non ho altre maniere, vediamo se ci risponde. Lui è una persona che ne sa di filosofia, quindi non gli chiederemo della solitudine secondo Kant, potremmo chiedere a lui invece di insultare Lorenzo Piccarazzi per svariati minuti. Lui potrebbe avere dell'ottimo materiale per noi. Nel frattempo alziamo leggermente le tracce sottofondo, così si sente qualcosa. Ma qui al telefono non ci viene risposto niente. Ah, qui vediamo com'è. Vabbè, sta funzionando per meno la cosa. È tristissimo dover tenere sull'attenzione di chi sta ascoltando. Pronto, buonasera. Riccardo. Ciao Davide. Ciao Guglielmo. Sei in diretta su Radio ZM, ovviamente. Prima di essere in diretta su Radio ZM sono seduto sulla tazza del cesso in questo momento. Madonna santa, ma quanto siamo Zona Rossa! Anche senza nessuno, Zona Rossa è Zona Rossa ed è il momento giusto per chiamarti. Ciao Davide, come stai? Sta andando bene? Funziona tutto? Molto bene, è appena uscito quello grosso, quindi mi sento già un pochino più leggero. Bene, bene. Lo scroto si attorciglia un attimino ogni volta che vedo il tuo numero comparire sul telefono, però... Però mi hai risposto, sei un ragazzo coraggioso, hai del coraggio dentro di te, ma anche fuori di te, e soprattutto adesso hai fuori di te ciò che di peggio avevi da dare al mondo, giusto? Sì. Sì, tendenzialmente. Bravo. Comunque è bellissimo perché il tuo audio rimbalza perfettamente sulle pareti del tuo bagno, si sente molto bene la piastrella d'angolo, è molto bello. C'è un po' di eco? Sembra che sì, c'è un po' di eco, ma va bene lo stesso, non ti preoccupare. Senti, aspetta che magari si apre la finestra, è un pochino meglio. Madonna, sei così gentile, affronti il freddo di gennaio per... Mamma, che spippero! Comunque, allora, tu come stai, Guglielmo, invece? Ma guarda, ti dirò, pieno di cibo e meglio, abbiamo visto di peggio, dai. Ma senti, saltiamo i convenevoli. Ma come mai sei da solo oggi? Ma allora, c'è chi fa finta di andare a lavorare, e ovviamente sai già di chi sto parlando perché abita in quella casa. Merda, merda, lui è un merda. Primo, poi vabbè, gli altri della redazione hanno fatto un po' i desaparecidos, chi va in montagna, chi va a mangiare, chi deve vedere la partita, cioè chi... Bella vita, vero, mamma mia, che bella vita. Vero, no. Ma senti un secondo, tu hai la possibilità di scegliere addirittura tre domande, possiamo fartene tutte e tre, possiamo fartene sì. solo una, possiamo fartene due. Decidi tu. Vai. Puoi scegliere la 1, la 2 o la 3. Porco Dio. Scusami, questo bravo. Era per un'altra cosa. Sei attore no, che non lusso. Ma non posso prima sentire le domande e poi sceglierne una a cui rispondere. Allora, la questione è questa. Una è una non domanda. Una è una specie di invito a fare la cosa che più gradisce al mondo, cioè tu adesso avrai 30 secondi di tempo per dire un insulto senza parolacce a Lorenzo Picarazzi. Vai. Ti fa ridere, ma come si fa, insomma, è un personaggio che si insulta da solo, un idiota. Ho detto tutto. Sì, hai detto tutto. La seconda domanda, che in realtà è la prima e sarà anche l'ultima che ti faccio, perché quella sulla filosofia non te la farò perché Gioia mi ha chiesto di fartela, per cui per dispetto non la farò assolutamente. Nel momento in cui tu dovessi arrivare in un futuro utopico, distopico, a seconda dei casi, in cui l'uomo viene meccanizzato da parti cibernetiche, quali parti vorresti farti sostituire? La rotula, che è quell'osso che sta sul ginocchio, tipo? No. È nel ginocchio, sì. Ok, ci parla di un infortunio. Secondo me con quella la mia vita sarebbe, cioè la qualità della mia vita sarebbe centuplicata con una rotula diversa. Ok, ma tu pensi che questa cosa sia un, cioè adesso tu che sei anche un po' filosofo di questa, cioè tendi, ci provi, insomma, fai quello che puoi, non sta a me di dire che di qualità sei tu, cioè questa cosa ti renderebbe meno umano secondo te, avere un pezzo in titanio che va a sopperire? Assolutamente no. Dai, dici qualcosa di ampio. Forse mi renderebbe pure più umano. Perché? Perché ti renderebbe più umano? Perché migliorerebbe le mie condizioni. Quindi ti dovrebbe rendere più felice, tipo più contento. Più con meno dolore, non lo so. Ma è grave? Cioè, stai tanto male? Dove venite a portare qualcosa? Un brudino caldo? Non so, un surroghetto di rotula? No? Non vuoi? Guarda, è una cosa che mi servirebbe in questo momento sarebbe il rotolo della carta igienica, infatti mi sa che... Esatto. Gioia! Bravo, chiama l'altra redattrice delle Ribelli per dirgli tutto quello che pensi di lei. È entrata in bagno? Ma siccome ho la porta chiusa e probabilmente non mi sente, prova tu da tu in diretta, chiaro, a dirle, chiaro, se può portarmi il rotolo di carta. Allora, però teoricamente tu sei in diretta anche tu, per cui la gente ti sente, quindi teoricamente Gioia dovrebbe averti sentito, in ritardo di qualche secondo ma ti ha sentito. Comunque questa è Zona Rossa, l'unico... Grazie Gioia! Madonna, la radio unisce! Un programma fantastico, Zona Rossa, è un programma incredibile. Po', Zona Rossa davvero. Ti porta la carta igienica al cesso, ragazzi, cioè nonostante tutto decolla. Non mi sarei potuto pulire il culo senza il tuo aiuto, hai capito, e qualcuno mi viene anche a dire che non sono bravissima, vai. Grazie. Perfetto. Grazie, è tutto fantastico e meraviglioso. A questo punto tu puoi fare una cosa che avevamo già deciso di fare tanto tempo fa con Lorenzo, si parla di rizoma, argomento che piace tantissimo anche a te, cioè tu mi devi dire chi chiamare adesso. Tommaso Russi, assolutamente. Vai, direi corretto. Va bene, carissimo, ti lascio a fare ciò che ti riesce meglio. Falla tutta, mi raccomando. Basta, buona Befana. Buona fine di giornata. Anche a te, Guglielmo, è sempre un piacere. Ciao, carissimo, stammi bene. Salutami, Gioietta. Ciao. Va bene, a questo punto si passa con il prossimo brano. Vi annuncio che essendo da solo io in radio metto soltanto zarrate senza senso, perché a me piace così, quindi vi beccate di un certo Clun Adrenaline. Ci vediamo dopo se avrete ancora le orecchie per sentire. insomma, traccione della Madonna, piace tantissimo. E va bene, allora adesso andiamo a chiamare chi ci ha proposto quel carino laido lurido di Cigo. Io abbasso leggermente il volume perché ho come l'idea che vi ammazzi col mio audio, ma forse semplicemente ho il volume delle casse delle cuffie molto alto e quindi basta che abbasso me e non sembrerà di ammazzare voi, ma solo di ammazzare me stesso col mio tono di voce petulante. Va bene, allora siamo qui, andiamo a chiamare lui che ci è stato consigliato e vediamo cosa ci dice. Ah, qua nel frattempo DJ, l'auto DJ di Mix fa il suo mestiere. Dovrebbe essere appena di sotto, per cui rispondere non dovrebbe essere un problema troppo. Forse sa anche già che siamo online. Bella Orso, ciao. Ciao, Gulli. Sei in diretta su Radio ZM, ovviamente. Oh, porco Dio. Esattamente lui, esattamente quello lì con la coda a riccio. E allora come andiamo? Bene, lo sovrappensiero. Ah sì, cosa stavi pensando, se si può dire per radio? No, stavo disegnando e ero in fissa sui colori. Vagavi con la mente. Va bene, com'è la situazione lì sotto per la cena della Befana? Come siamo pronti? Come sta andando? Ma sì, in cucina so che fervono i preparativi. Qui siamo sottostanti alla dittatura musicale di Macio, come sempre. Beh, se vuoi, stasera Zona Rossa propone una DJ set tutto quanto mio, per cui c'è musica veramente terrificante e torrida. Se vuoi combattere la dittatura con una ribellione orrida, se vuoi, puoi farlo. Sì, che è difficile perché a lui detiene il monopolio sia del diffusore sonoro che dei mezzi di connessione, quindi... Bene, molto bene. Ci proviamo. Cosa si può fare per limitare questa dittatura fondata sulla paura e sull'ansia della musica? Cosa faccio? Lo chiamo al telefono? Cosa dici? A sua insaputa? Guarda, lui è un bastardo. Penso che sapendo che oggi sia mercoledì si sia premunito in ogni modo e maniera. Va bene, però non so, a un certo punto posso anche scendere per di sotto e sputare in un occhio. Cosa dici? Dai, male che vada. Questo si può fare. Questo ha più senso. Questo si può fare. Va bene, senti, allora, parlando di quasi cose serie, hai tre, dato sì. Che non c'è Lorenzo, finalmente Zona Rossa ha un senso. Puoi scegliere due domande e fare il bonus aperitivo. Il bonus aperitivo sono 30 secondi di tempo in cui ti viene data la possibilità di insultare Lorenzo Pigarazzi senza insulti. Poi passiamo alle domande di oggi. No, il freestyle non me la sento ancora, dai. Ok. Passiamo direttamente alle domande. Va bene. Allora, la domanda è, dato che oggi sono da solo, sono stato lasciato drammaticamente da solo da tutta la mia redazione, soprattutto da quella merda di Cigo, che tra l'altro ti ha pure infamato, perché è stato lui a dirmi di chiamare te. Per cui, pensa. Tra l'altro Cigo è una merda, ha detto, si fate la partita, bla bla, e non c'è nessun Cigo qua. Esatto. Il solito abbaglione di merda. Mentre giù ho visto con i miei occhi che è già acceso il proiettore per lui. Pensa, noi abbiamo fatto questo per Cigo e Cigo non c'è. Se ci sei ascoltato esatto. Cigo sei una merda. Quindi, dato che sono da solo, la volta che ti chiedo una cosa un po' triste, ma intanto capita. Qual è l'ultima volta che ti sei sentito solo? Che ti hanno fatto sentire solo? Ti direi a marzo. A marzo? A marzo, quando c'è stato il lockdown. Certo, eravamo tutti quanti chiusi in casa o chi segregato a ZAM, giustamente. Cioè, l'ultima volta che mi sono sentito così a marzo, diciamo. Marzo, aprile, quel periodo là. Ok, e invece l'altra domanda è, mettiamo che veniamo catapultati in un futuro distopico in cui gli esseri umani vengono innestati con robe cibernetiche, pezzi di ferro, eccetera. Tu cosa vorresti farti cambiare e cosa saresti disposto a cedere per avere una roba sintetica? Allora, cedere... obbligatorio cedere per sì, avere diciamo che no nel senso di diciamo che così ha vinto il comunismo e quindi parti sintetiche per tutti, chiunque ne abbia voglia o bisogno parte, però non puoi scegliere, cioè qualcosa te lo devi far mettere, dimmi che cosa. Ok, allora io vorrei la coda. Tu vorresti la coda? Come mai? Io vorrei la coda, non lo so, perché così sarebbe tutto tipo, non so, di quelle cazzate quando giochi al computer o qualche console che magari fumi e ci vorrebbe la terza mano con la coda, che storia, una bomba puoi fumare, mille altre situazioni, non ti va l'accendino ma puoi farti capanna con la coda, come del genere. che storia senza contare che è stilosissimo, effettivamente sì, ma secondo te quanto di questo tuo sogno dipende dal fatto che abbiamo visto troppo Dragon Ball nella nostra vita infantile? No, ma io vorrei più una coda tipo Inuyasha, non so se è presente. La coda tipo Inuyasha? È una coda gigante, no? Tipo volpe, super morbidosa. Ah, ok, ok, così proprio un po'... Ok, va bene, va bene, bello, bella storia, figata. Figata, ci sta, ci sta. Ma senti, allora, continuiamo il ciclo dell'informazione. Se vuoi informare qualcuno e farlo chiamare da me, che è però lì presente non deve sentire il suo nome, mandami un messaggino. Che così lo chiamo, se no, se hai qualcun altro, dimmi pure il nome, così lo chiamo e basta. No, io vorrei che dirti un nome, poi ti mando anche un messaggino. Okay. Vorrei dirti un nome, vorrei che tu chiamassi Tika Raggi o che gli facessi sapere che ci aspettiamo ancora un po', le puntate di Up, facciamo uscire quelle del 2021. Cioè. Ah, quindi vedi, l'angolo degli insulti è questo, tu che non tu che non fai nulla nella vita, Lorenzo, potresti anche fare qualcosa di utile per il mondo e la rivoluzione, fai sto cazzo di podcast. Quando gli capita, se quando può. Quando ha tempo, poverino, così preso. Visto che è possibile farlo autonomamente. Stai scherzando? Dai, solo Lorenzo sa farlo, è solo lui, esatto. Capace solo lui. Va bene, allora aspetta il messaggino. Che poi è vero. Che esatto. Tra l'altro purtroppo è anche vero. Senti, dai, solo perché sei tu, Gigi, dimmi che canzone mettere, che io ho tutte le mie cartucce, ma se le sparo subito poi non va. Ah, ok, bene. Allora io ti chiedo, visto che qui Maccio quella merda non me la fa ascoltare, When November Has Come dei Gorilla. When November... Allora, ma noi ce l'abbiamo nel nostro database? Potrebbe esserci, però potrebbe anche non esserci. Allora, vediamo un attimo perché cerco tutto qua. Sì, November Has Come, FMF Doom, giusto? Esatto, sì. Ma senti, ma una domandina per danno, io che sono profano, per me che sono profano, ma questo FMF Doom è il rapper morto da poco? Sì, sì, che in realtà è morto da Halloween, ma la moglie l'ha detto pubblico dopo. Solo... l'altro ieri. Ma perché poi? Non si sa. Vabbè. Va bene, va bene. Allora niente, ci ascoltiamo dei Gorillaz November Has Come con FMF Doom. Grazie Gigi, mandami il messaggio che ti chiamare e ciao Ne. Ciao ciao ciao. Allora, qua facciamo partire. Qui mettiamo la dissolvenza immediata, alziamo i volumi e ci andiamo a ascoltare questa bella traccia. Slow it down some, no split, clown bum, your gold hit sound dumb, hold it now, crown them, where you found them at, got them round town, could have drowned in it, would have floated, bloated, voted, sugar-coated, loaded, hip shooter, draw for the poor, free, coffee at the banks, hit through the straw, none more for me, thanks, that blanks the roar, that dank sure stank lit, sank past the pit for more hardcore prank spit, crank it on blast, roll past Front Street, blew the whole spot like some old ass with skunk meat, these kids is too fast, juiced off a junk tree. Who could get looser off a crunk or a funk beat? Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come? It's gone away. Something is starting today. A spigot. My guess is yes, you can. Like, can I kick it wicked? Lick a shot if you happy and you know it. As you clap your hands to the thick snot of a poet flowing. Grope a pen and I'm in. Cope hymen, dope a rhyming. More worth it than the hope diamond. Acquired off the black market. A wire tapping couldn't target a jar spit. The rapid fire spark lit. Zit. A rapper bug zapper, and it don't matter after if there's a thug or dapper. Plug your trap or it's maximum exposure. The beast got family members asking them for closure. Send them a gun and tell them clean it. Then go get the nun who said her son didn't mean it. She wore a filled in thong or billabong. And said, nah, for real, I'm a gorilla, I'm a gorilla, John. Something is starting today. Where did it go? Why you want it to be where you know November has come? E Ed eccoci tornati dopo la bella traccia che ci ha proposto il compagno Gigi. E nel frattempo sto sempre cercando di diventare scemo facendo più cose assieme. Penso che a un certo punto mi esploderà il cervello, in quanto io maschio non riesco a fare due cose contemporaneamente. Quindi ora sto componendo il numero di chi andremo a chiamare tra pochissimo. Lui è un neo aggiunto della nostra fantastica redazione e di questo fantastico programma, avete già capito, è l'attore Tommaso Russi, a cui chiederemo una recitazione al volo, al telefono, di Shakespeare. Una cosa facile per un attore della sua caratura morale ed etica, politica e professionale, insomma praticamente è un diamante da quanti carati ha. Buonasera Tommy! Voi dovete santificare le feste! Ma voi chi che sono da solo? Ma voi chi? Che ne so, ho detto, ma che giorno è? Mercoledì. Appunto, buon mercoledì. Ciao Gulli. Cosa stai facendo? Mi sono trasferito a Padova, sto cercando casa. Oh cazzarola, senso, ma così proprio? Hai preso il treno e sei andato? No, dovevo andare. Osteria. Da un po'. Ma sei sul treno? Cosa stai facendo? No, sto camminando, ho avuto la... Mi sa che abito nella Corvetto di Padova. Ah, che storia. E ho avuto la geniale idea di andare a Piotti. Quindi adesso ho la valigia e tutto. E Zanaro se ti chiama al momento giusto. Beh, ma cazzo, vedi? È sempre fantastico. C'era Davide Indovino che era successo. Tu sei in giro con la smadonnare, con la valigia per Padova. È il programma perfetto questo. Ma senti, ma ce la fai un'improvvisazione di Shakespeare così al volo, tu che sei bravo? È la Madonna. Dai che ce la fai. Un classicone, Romeo e Giulietta, la scena del balcone. No, ce n'ho un'altra. Vai. Mica ce l'ha pronta, sei un genio, cazzo, vai. Io odio il Moro, perché sembra, o almeno così si mormora in giro, che sia stato tra le mie lenzuola a fare le mie veci. Non so se ciò sia vero, ma in questi casi basta il sospetto a darmi il diritto di agire come se ne avessi certezza, no? E poi non me lo ricordo più. Madonna, sei fortissimo. Ma se ti faccio se ti chiedo invece una citazione, cioè così, una reinterpretazione di Vlad Scolari, ce l'hai anche? Dai, un'opera di Vlad, so, la versione che hanno messo in scena qua Zam. Siete delle puttane, siete, basta. Questo però è Vlad dopo una certa ora un po' conciato. È verissimo, l'ho pensato subito anche io. No, ma comunque io volevo in realtà un estratto dalla carriera professionale di Vlad, non dal Vlad che abbiamo conosciuto. Questa era la carriera professionale. Ah, ok, hai ragione, scusa. No, sto scherzando. È che non... Ma... Non le so a memoria le robe di Vlad. C'hai ragione. Non so, qualche altro pezzo che fai a memoria così? Al volissimo? Non so, una roba di Pasolini, qualcosa di Brecht, qualcosa di Goldoni, cioè, qualcosa di... Boh. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete... Non mi ricordo più, mannaggia. Madonna, questa era Leopardi, credo. Questo è Pezzettini, sì. Fantastico. Ma senti, ma perché non facciamo una versione Radio ZM della Divina Commedia e ti facciamo te come Benigni? Però devi fare anche l'accento toscano, ce la fai? Ma guarda, pensa che io sono venuto qua a Padova perché ci faccio uno spettacolo sulla Divina Commedia. Quindi basta, pagate, doppio stipendio. Figa. Fondazione. Ti paghiamo, boh, non so, degli strufoli ti vanno bene, ti bastano come pagamento, sì. Non so, un po' di cioccolato. Sì. Una bici. Una bella pacca sulla spalla, Tanto rispetto e onore. Ah, l'onore, la dignità, non si comprano. Ma quindi t'hanno abbandonato oggi, ti giuro. Ti giuro, guarda, se vuoi posso fare questa cosa, guarda. Adesso questo è il microfono 1. E questo è il microfono 2, cioè ti posso parlare di tutti i microfoni perché non c'è nessuno. Microfono 2? Eccomi tornato al microfono 2. 1, sì, sono qua Zami in presenza e quindi niente, mi godo la fantastica solitudine. Ma in realtà, oltre a chiederti bellissime imitazioni, bellissime citazioni che stai a fare meravigliosamente, tu hai... Mi dica, fratello! Esatto, bravo. Comunque in realtà Zanetti... A mio personale parere non è tra le tue migliori interpretazioni. Forse è più Papa Francesco. Esatto, esatto. Però sono tutti e due argentini, dai, gli piace il calcio. Sì, sono gentili e gli piace il calcio. Esatto, esattamente. Però un pugno, se qualcuno dice che tua mamma è una puttana, glielo tirano. Basta con queste parole sussiste. Esatto, però l'ha detto Papa. Lei è stronza, non puttana. Esatto, lei è solo stronza. Hai sentito? Sì, ho sentito. Il che ha detto svolta a destra e prendi via Stefano Gallini. No, chi è che ha detto questa cosa? il cellulare, perché non so un cazzo, mi sto guidando. Sono arrivato nella via giusta, però questo è già molto bene. Minchia, è proprio sperduto. Cioè, io nell'ultima mezz'ora ho incontrato una pizzeria. Quindi, cosa mangi stasera? La tua tristezza? Buona epifania, comunque. Dovrò tornare indietro alla pizzeria che ho visto mezz'ora fa. Fantastico, fantastico, buona scarpinata. Ma prima di lasciarti la tua scarpinata, abbiamo tre domande da chiederti, da farti. Dai, abbiamo, mi piace. Abbiamo plurale. Io e me stesso e la redazione di Zanarossa, che sicuramente è d'accordo, ma in questo momento in realtà il plurale va bene, perché c'è anche Nils che girava qua per la radio facendo qualcos'altro. Non ti può sentire, se vuoi dirgli degli insulti, no, vabbè, addirittura Tommy, vabbè, ma queste cose di Nils devi dire. Curciotti. Esatto. E ha detto qualcosa in una lingua strana che intendete solo voi due. E detto questo, tu prova a far saltare la connessione in questo momento e finisci tritato da qualche parte, sappilo. La password, non posso dirla in diretta, ma se vai giù a chiederla a Gigi la sa. Perfetto, ora che ho fatto anche un'altra cosa insieme a quelle che stavo già facendo, le domande sono queste. Allora, prima domanda, aperitivo. Hai 30 secondi di tempo, che sono lunghi ma anche brevi, per insultare Lorenzo Picarazzi senza parolacce. Lorenzo, sei un uomo nato dalle feci. Il problema è che, a differenza della canzone di De André, dalle feci non nascono diamanti, nascono solo feci, ed essendo tu nato lì, probabilmente crescerai lì e morirai lì. D'altronde arrivi da quel posto strano che non è neanche Milano, ma che fa rima, che potrebbe benissimo farci rima. E quindi noi cos'altro dobbiamo fare, Lorenzo? Purtroppo è andata così. Andrà avanti così e sta sicuro che finirà così, non c'è nessuna speranza. Tempo! Meraviglioso, meraviglioso. Tommy, mi hai lasciato veramente un sacco di piacere, fantastico. Veramente, grazie mille, grazie mille. C'è chi si è rifiutato blandamente di insultare Lorenzo, chi invece si è dato... no. Tu invece no, tu hai colpito duro senza come un bisogna attimo fare. Di esitazione. Bravo, proprio così, dramma, treno dentro, bravo, grazie, grazie, grazie, molto importante. E quindi a questo punto, dato che io sono da solo stasera, volevo appioppare questa presa male anche a tutti gli altri e a tutte le altre, per cui ti dico, quando è l'ultima volta che ti hanno lasciato da solo? In questo momento. Ah, perché doveva esserci qualcuno con te? Diciamo che io dovevo essere in compagnia, ma hanno lasciato da solo. Quando è l'ultima volta che hanno lasciato solo anche te? Ma tutta la vita. Addirittura. No, non lo so, non mi ricordo. Detta così non mi ricordo. Che mi ha impaccato. Sì, che ti ha impaccato. Pure che doveva essere proprio una cosa bella. La facciamo tutti insieme, tutte assieme. Poi c'eri tu e basta. No, mi spiace Guglielmo, io ho degli amici. Madonna. A differenza mia, a differenza mia. Non sei l'unica persona che me l'ha detta questa cosa nella vita, per cui devi starci attento. Ascolta, quindi arriviamo all'ultima parte. Facciamo conto che ti svegli tra 50 anni e ha vinto sulla Terra un regime comunista futurista, per quanto magari il futurismo fosse avvezzo ad altre parti politiche, però fa niente, diciamo accelerazionista, ecco, così siamo d'accordo. Per cui ti svegli e ti dicono: caro compagno, qui il mondo è una meraviglia, è tutto favoloso, non ci sono più problemi, ma ti dobbiamo cambiare una parte del corpo, dobbiamo metterti una parte del corpo sintetica, perché ora è uso così. E cosa vuoi che ti impiantiamo? Possiamo fare tutto, quello che vuoi, però te lo mettiamo sintetico. Tu cosa ti faresti cambiare se potessi? Mi faccio mettere le ali. Ti fai mettere le ali? Che storia, perché il sogno di una vita è quello di volare? Però provarci una volta sarebbe simpatico. Ah, hai capito, bella storia. Bello, bello, molto bello. Va bene, allora senti carissimo, a questo punto tu puoi farci il nome di qualcuno che verrà chiamato dopo di te. Infami qualcuno. Ah, Davide l'hai già chiamato. Chiama Vlad. Oh, hai ragionissima, è vero. Chiamiamolo se te la tua preferita. Sono arrivato davanti a casa. Oh, hai visto? Quella che credo sia a casa. Zanarossa ti ha trovato, ti ha accompagnato e... Mi ha accompagnato a casa. Vero o no? Hai visto? Non ti lasciamo solo, caro. Caro abbonato, non ti lasciamo da solo. Bella e libera. Com'è che era? Bella e impossibile. Bella e impossibile. Radio Popolare. No, Radio ZM, grazie. Radio Popolare. Sbagliato. Esatto. È un'altra emittente. Va bene, carissimo. Va bene, ci salutiamo qui, è stato fantastico. Ci sentiamo presto. Bella lì. Bella. Buona serata. Ciao. Va bene, per il vostro dispiacere vi beccate una seconda traccia che ho scelto io. E qui tra l'altro è partito in sottofondo. Sentite qua. Non sono mio, perché tu Questa è una puntata del 2019, del 26 novembre del 2019. Eccolo, sentite Gigi che parla. E parla di una traccia che stanno mettendo su. Credo che fosse una delle prime puntate di Up. Che storia. Va bene, mi spiace per i podcast. Andateveli a beccare su Archive o sul sito di Zam, che è zammilano.org, se non sbaglio, .it, chiedo scusa, zammilano.it, c'è la sezione radio, tutti i nostri podcast, andateveli a beccare. Comunque vedo che la chat di Telegram si era infuocata prima e adesso si è completamente spenta. Maledetti e maledette che siete all'ascolto, scrivete sulla chat di Telegram radio ZAM-chat. Tra l'altro poi andremo a disturbare anche i redattori dell'altra trasmissione, la Fuori dal Comune, perché vedo che qui invece loro la chat la usano una cifra, un sacco di gente che gli scrive, e questo genera in me ovviamente tantissima, come si dice? Competizione, invidia, no, gelosia, perché non sono bravo come loro e non ho amici né amiche. Per cui cambiamo musica subito, alziamo il volume e a tra pochissimo. Se qualcuno avesse dei dubbi, qualcuno avesse avuto dei dubbi, ce la faccio, in 7 minuti riesco a parlare correttamente con una persona che ce la fa, su come mai mi è venuta in mente la domanda su Cyberpunk, beh, il motivo è questo, mi sono messo ad ascoltare questo tipo di musica che mi fa immaginare solamente immagini di robot che si muovono, pesanti, macchinosi, ripetitivi all'infinito, per cui ho desiderato tanto diventare uno di loro. Va bene, a questo punto allora andiamo a chiamare la prossima persona che ci è stata suggerita. Sempre che io ne abbia il numero, ma dovrei averlo, perché purtroppo sono così furbo ad aver sfondato svariati telefoni nell'ultimo anno, nell'ultima vita, per cui molto spesso mi trovo ad avere i numeri che mi mancano. lei è una compagna della Madonna, in questo momento forse un po' raffreddata, ci dovrebbe rispondere perché anche lei è stata avvistata nei bassi fondi di Zam non più tardi di 10 minuti fa, per cui speriamo che abbia il telefono sotto mano. Qui nel sottofondo ci sono degli ottimi rumori di ufficio, tipo stampanti scarrellano, cose, robe, storie. Questo è Nils che ci aggrada con la sua presenza. Benvenuto nel servizio di... No. No, no, no, non ci risponde, però può darsi che non sia una di quelle persone che poi ci richiama. Vediamo, vediamo, vediamo, torniamo da un'altra parte, da un'altra parte. Io purtroppo questo numero non ce l'ho, per cui andremo a colpire là dove sta, là sul morbido. Là sul morbido, perché noi siamo degli schifosi, noi, io sono abbastanza uno schifoso, per cui si attacca al nemico là dove è più morbido. Per cui noi andiamo a chiamare della gente che tendenzialmente sa cosa accade al mercoledì sera. Se faccio così non succede assolutamente nulla, perché ho messo il numero di telefono che dovevo chiamare nella funzionalità cerca del mio telefono, quindi è normale che non parta la chiamata. È difficilissimo stare da solo in radio, c'è con me Anis che però guarda la stampante invece di dire cose in radio, non si è nemmeno messo le cuffie. Ma ora ce la facciamo, andiamo in quel di Roma, stiamo chiamando il grafico più pacco dell'universo. No, non è vero, poverino, fa delle bellissime cose, differenza mia che la maggior parte del tempo faccio cose piuttosto inutili o che più altro vengono immediatamente sostituite da Eila. Buongiorno. Aiuto. Come ride. Ciao caro. Aiuto. Come stai? Malissimo. Come mai? Cosa è successo? Perché tutti sto giocando un gioco di sopravvivenza steampunk e tutti i miei amici stanno morendo congelati. No, ma che gioco è? Si chiama... Scusami, nel frattempo non so se tu la senti, ma è sottofondo perché è una stampante e ai nostri microfoni che sono aperti si sente benissimo che c'è sotto una stampante che va, ma fa niente. Ah, che bello, sì, c'è proprio una roba, esatto, molto punk. Vabbè, e quindi dicevi stai giocando a un gioco steampunk, come si chiama? Che non... aspetta, te lo dico subito. Non è vero, non te lo dico. Va bene, ma è un gioco di quelli che installi o di giochi quelli che fai tipo ready to go? Online. Ma no, è mega serio, è uno di quei tipo city builder, no? Devi costruire la città, sopravvivere, le intemperie. Storia. È difficilissimo. Ma invece sai che avevo scoperto un gioco che si chiama Factorio, siccome lo conosci, che tu praticamente sei un astronauta che cade su un pianeta. Grazie. Mi viene fornita della sostanza stupefacente, molto, molto gentile da parte sua. Ma vuole qualcuno dire? Ah, è il suo, quindi devo fare un sorso mentre parlo con... Adesso, cari ascoltatori e ascoltatrici, sentirete me che bevo del vino. Ma come, non era il programma più sobrio della radio? È praticamente proprio da mangiare. Vabbè, mi dicono che devo stare poco al telefono con te perché hai proprio da mangiare. Sì, era un programma sobrio. Beh, ho bevuto un goccino di vino, dai, non esagerare. Beh, ma senti, ma quindi questo gioco si chiamava Factorio e tu eri un astronauta che cadeva su un pianeta e doveva ricostruire dall'intero la filiera produttiva industriale, cioè proprio partendo da tu che picconi in giro, poi devi guardarti i tuoi robottini da produzione, eccetera, per arrivare a costruirti uno shuttle con cui ripartire. Ah, bello. E nel frattempo c'erano degli alieni della zona che ti venivano a rompere le palle e tu li potevi ammazzare costruendo dei cannoni, eccetera. Degli spessi di zona, come direbbero a Roma. Esatto. La questione qual è? Che tu praticamente dovevi costruirti tutto, ma a livello che a un certo punto la gente si costruiva il treno interno alla propria base per spostare i manufatti da un punto all'altro della zona produttiva. Perché è un gioco abbastanza complicato, cioè ti devi produrre i chip, i microprocessori per i computer con cui fai andare le macchine che ti stampano i laminati, con cui fai il case esterno dei robot che vanno a costruire, che cazzo ne so, vanno a impastare la gomma per farti i pneumatici che poi monti sulle macchine, che, cioè una roba devastante. Ma ti potrebbe piacere. Sì, il livello più o meno è quello. Bene, ma ti sento raffreddatissimo, la mia impressione? No, un po' sono raffreddatissimo. No, raffreddatissimo, qualche giorno fa peggio, secondo me è molto meglio. Ah, ok, molto bene. Senti, allora, io ti sono venuto a disturbare oggi perché sono stato lasciato da solo dagli altri compagni della allegra brigata di scemi che fa parte di questo programma. Avevi fatto due domande, Gulli. Sì, ho capito, anche tu hai smesso di rispondere, pezzo di merda. Vengo a Roma e ti infilo nella casella della posta i tuoi libri, bastardo, il tuo libro, che tra l'altro non sei mai visto. Io te l'ho chiesto, non me l'hai mandato, non mi hai detto un cazzo, non sei passato di guardarmelo, pezzo di merda. Dov'è sto libro? Dov'è? Presentiamolo in radio! Cosa devo fare? Che cazzo sei tu, Tolkien, che ti devo inseguire per presentare sto libro? Sono mezzi dispersi in giro per le poste, in realtà, solito discorso. Ma aspetta, però... dimmi una cosa, ma se io quindi ti pago questo libro, poi ti condanno un'altra giornata alle poste per farmi spedire il libro? Qualcosa del genere, sì. Te lo pago domani mattina. domani mattina te lo pago in diocane, voglio mandarti le poste 7 volte. Lo faccio comprare anche alla mia sorella, al mio fratello, dall'altro mio fratello. Guarda, ti faccio morire alle poste. Solo per farmi stare alle poste. Esatto. Sei il peggiore. AKA le poste, AKA la bocca dell'inferno. Diciamo. Tu sei il peggiore. Lo so. Ma senti, carissimo, vabbè, allora, dato che abbiamo tempo da perdere, perché lì che giochiamo al computer. Ma allora, ci sono 3 cose che puoi fare stasera. 2 è rispondere alle domande, la prima invece è improvvisare. E l'improvvisazione è questa: tu hai tra poco avrai 30 secondi in cui devi insultare a braccio Lorenzo Picarazzi, cioè Lorenzo, il nostro redattore, nonché portatore di questa magnifica radio. Qui da noi a Zam, devi insultare senza però dire insulti. Cioè, parolacce. Però devono essere insulti brutti. Cioè, lui deve immaginare che lui poi deve piangere queste cose. Deve starci male. Ma non posso insultare te. Cioè, dai, va bene. Dai. Hai 30 secondi per insultarmi, ma, ti ripeto, senza dire parolacce. Cioè, coglione, stronzo. Nemmeno merda puoi dire, nemmeno. Niente, devi proprio dire una roba di più. Aspetta, tra quanto partono? Dai, facciamo le altre 2 domande. Così nel frattempo il tuo cervello subliminale lavora va bene. Ci pensi. L'altra domanda è: dato che io sono rimasto da solo qui, e nemmeno tu sei stato con me qui a fare delle cose in collegamento, niente, ti sei offerto di fare nulla, pezzo di merda, la grafica. Sì. Quindi sono da solo. Quindi adesso mi dici quando è l'ultima volta che tu ti sei sentito solo, ti hanno lasciato da solo. Oh mio Dio, perché a livello delle domande è sempre questo? Perché siamo speciali, caro. Questo non è un programma come un altro, questa è Zona Rossa. Siamo il meglio del peggio. Se vogliamo proprio prendere l'esempio massimo così dell'espressione, dello stare soli in queste situazioni, a Capodanno lo passo da solo. Ma no, ma perché? Ma dove cazzo è? Perché alla fine tra una roba e l'altra gli incroci che dovevano esserci non ci sono stati e il risultato è che la chiamata "oh vieni dove sei" è arrivata alle 11:30, che quindi era ovviamente impossibile, ma quindi non ho potuto uscire. Ma come? Scusa, tu fai queste domande tristi, io ti rispondo con una È che mi spiace un po' per te, guarda, non mi viene nemmeno voglia di sfotterti, poverino, perché sarai già abbastanza triste di tuo, e questo questa è l'unica cosa. No, ma non sono solo triste per niente, tanto sono ubriaco tutti i giorni. Ok, quindi sei ubriaco anche adesso? Ma in realtà non ancora. Molto bene. Io... No, vabbè, sì. Dai, sono a casa dei miei, ci sta che non sei ubriaco. Ma quindi non ho capito, scusami, tu adesso dove sei? Sei a Roma o sei a Bergamo? Adesso sono in Lombardia, però domani parto. Ah, domani te ne vai. E beh, se passi da Milano ti tiriamo 2 schiaffi e ti mandiamo via. Dai, passa di qua. No, cosa fai? Fai un diretto? Sì, per prendere il treno, se vuoi ci vediamo domani in stazione centrale per 2 schiaffi volanti. Che cazzo, così? Se c'è un buco, che ora passi, carissimo? Scrivimelo in privato, dai. Non facciamo sapere i cazzi tuoi a tutto il mondo, però scrivilo, che magari qualcosa te lo tiro, va. Però c'è questa cagata che per entrare ai binari devi avere il biglietto, minchia, sta mondo securitario di merda. Tu dici che se mi presento lì al tornello, al soldatino, gli dico: "oh, soldatino, devo andare a tirare 2 schiaffi a un mio amico che passa da Bergamo, fammi passare". Poi tafferugli, risse, cose, le prendo una cifra ovviamente. Sì, guarda, ho visto anche cose più strane in stazione ai tornelli. Che meraviglia. Ma allora, senti un po', la seconda domanda è: allora, ti svegli in un mondo tra 50 anni, ti addormenti, un sonno un po' pesante, ti svegli tra 50 anni uguale a come sei, non sei invecchiato della briciola, ma il comunismo accelerazionista ha vinto e quindi ti viene detto: questo è un mondo meraviglioso, non c'è più lavoro salariato, c'è tutto di tutti, di tutte, c'è il perfetto socialismo, stiamo benissimo, non c'è più nemmeno la crisi ecologica, ma c'è un ma. Per vivere in questo mondo ti dobbiamo impiantare qualcosa di artificiale. Puoi farti sostituire qualcosa, potremmo metterti qualcosa ex novo, però qualcosa di artificiale te lo dobbiamo mettere. Tu che cosa ti faresti mettere? Posso dire una cosa politicamente scorretta? Vai, dicelo! Scusa, dai, i vaccini non sono sta roba, non vale il microchip, quelle robe... No, risulta troppo. È un casino, se la butto sul novaxismo. Ma non penso, intanto perché non siamo nel comunismo perfetto. Per cui, cioè, se viene fatto da una società che vuole controllarti, non è la stessa cosa. Ah, ok, quindi io ho la possibilità. Non lo so, mi farei impiantare tipo un terzo braccio. E come mai un terzo braccio? Cosa ci fai con un terzo braccio? No, per fare più cose. Ah, ci sta, così. Banalmente, senza proprio così, una roba tranquilla. Ma senti, ma vabbè, poi in privato potremmo nerdare un pochino, perché voglio farti conoscere un personaggio di un manga che ha tre braccia, li usa ovviamente per fare la guerra ad altra gente, ed è molto bello. E conosco un sacco di persone che dicono di avere tre gambe, però non so se è la stessa cosa. Ma questo mi sembra un'immagine triviale abbastanza poco realistica, che viene utilizzata da maschietti un po' troppo in linea col patriarcato, secondo me, così, per enfatizzare i loro attributi. Ma guarda, ti dirò. Certe volte non è che avevo proprio sbagliato del tutto. Allora complimenti per loro, complimenti a loro. Era una questione di mi racconto. Meno male che allora c'era la verità. Fortunato lui, e si spera fortunata lei o lui, che riceverà tale dono. Bene così. Ma allora, senti, a questo punto siamo tornati al punto di partenza. Da adesso partono 30 secondi di insulti per me, senza ovviamente, come si dice, torpiloquio. Per cui vai, colpiscimi, fammi male, fammi piangere da solo. Fatti male? Vai. No, non so, allora, secondo me potremmo buttarla sul fatto che un programma come Zona Rossa poteva uscire isolatamente, però non è proprio un insulto, cioè no. Questo sta un po' al livello delle persone che ci ascoltano, alla bassezza di questo programma, che spesso tocchiamo, e spesso anche per colpa mia, tra l'altro. Sì, molto spesso, tipo tutte le puntate, tipo. O si potrebbe addirittura dire tra l'alcol. Esatto, madonna, tra l'alcol, ha fatto pure la battuta, Dio santo, Dio, ma quanto sei forte. Sono fatto? Una persona cattiva, io non... Sei tu, stai insultando me, dici, quanto sei forte. Tu quanto sei forte. Lo so, era per tua darti... madre. Senza il cartellino giallo, compagno Francesco. Vabbè, ma senti, allora, ma dai, va bene, 30 secondi di insulti li hai passati, va bene così, dai, ci provato. Direi con un 6 meno meno. Vince lo sport anche questa volta. Ma senti, ma invece del tuo libro quando cazzo vuole parlarne? Anche io che pur uso queste parolacce quando sono totalmente inutili. Quando vuoi parlarne del tuo libro? Guarda, domani torno a Roma, con calma ci organizziamo. Dai, metà gennaio tipo? Non che si trova troppo tempo, sennò poi mi cade nel dimenticatoio. Ma in realtà no, perché comunque appena ci sarà la possibilità di rimuoversi, cioè di muoversi ancora tra le regioni, così ho intenzione di riprendere il tour delle mostre, della presentazione del libro, quindi poi ci sarà modo. Poi appunto le copie sono finite. Ah, pure. E quindi ci sarà la seconda ristampa. Con tutti i vari errorini sistemati. Ma scusa, ma quante copie hai venduto quindi per aver già finito la prima stampa? 150. Ma sti cazzi! Bravo, minchia! Sì. Complimenti! Dovevano essere di più, però abbiamo detto con l'editore che siccome Covid, mica Covid, era un po' incognita, abbiamo detto stampiamo noi di meno e vediamo come va. Bello però, dai, cavolo, sono tanti libri, complimenti. Grazie. Sei una brava persona, nonostante tutto, sei anche una persona che fa delle cose belle, molto belle. Sì. No, davvero, sono serio, in questo momento sono serio, tendenzialmente non lo sono, ma non lo so. Va bene, caro, allora a questo punto tu mi puoi consigliare chi andare a disturbare, me lo puoi dire in forma aperta adesso, me lo puoi scrivere in privato, così facciamo un surprise della surprise, metti in caso che questa persona sta ascoltando questa emittente radiofonica. Non si sa va mai. Bene, però non so chi hai già chiamato. Chi è? Chi vuole chiamare? No, tu, chi hai già chiamato oggi? Ah, io chi ho già chiamato, scusami, non ho capito. Ho chiamato Gigi, il compagno orso. Ho chiamato Tommy, il nostro attore. Ho chiamato... Che cazzo ho chiamato poi? Oddio, non ricordo più. Ah, ho chiamato una persona, non mi ha risposto. Ho chiamato... Basta, forse sai, ho chiamato i tre. Ah, ho chiamato anche Cigo, ovviamente, il nostro altro redattore. Va bene, allora io ho un'ideuzza che lo scrivo sulla messaggistica via internet. Bravo, dai. Aspettiamo il tuo messaggino, caro. Nel frattempo ti ascoltiamo un pezzo che ti fa sdraiare per terra. Se non stavi ascoltando la radio, che ho deciso io, male. Giusto. Sì, bravo, che hai deciso tu. Tu sei un infamucchio se non la stavi ascoltando noi. Se ci stavi ascoltando invece sei un bravo compagno, complimenti. E basta, va bene? Va bene. Dai, accendi questa radio, ascoltaci. Si chiama di Matteo Tura, Larsen, un pezzo cyberpunk potentissimo. Ascoltatelo che poi vuoi diventare un robot anche tu, così come voglio diventarlo io da 5 settimane. Perfetto. Va bene. Dai. Ciao, dai. Caro, ci sentiamo. Ciao. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo pezzone. A tra poco. Niente, Nisso cerca anche di farmi parlare di cose serie, purtroppo. Io risaputamente quando parlo di cose serie sbaglio. Diceva giustamente un compagno l'altra sera in assemblea che Guglielmo tendenzialmente è in piedi e fa cose, e quando si siede dice minchiate in radio, oppure si siede, l'altra condizione in cui sono seduto è in assemblea. Quindi il compagno non diceva giustamente che dicevo minchiate in assemblea, però effettivamente cioè, verrebbe da pensare che c'è tutto sommato un certo tipo di assonanza in questa questione. Va bene, allora mi hanno consigliato di chiamare questa persona di cui non avevo il numero e sono così tanto come si dice, così tanto presi bene nel farmela chiamare che mi hanno persino mandato il contatto, cioè la gente è proprio incarognita con questa lei, possiamo dirlo. È una ragazza che ha nel suo nome ha un lei molto importante, cioè nel senso il suo nome da artista è un lei. Perché lei è la DJ, quindi è lei la DJ. Qua abbiamo abbassato il volume della mia voce è sempre molto alto, ma in realtà è il volume delle mie cuffie, l'ho imparato poco fa. E sentiamo cosa c'è da dirci la carissima Jessica. Suona, il telefono suona e continua a suonare. Dato lei ha fatto teatro, potremmo chiedere anche a lei delle citazioni colte di teatro. Sarebbe forse divertente, ma forse semplicemente non ci risponde al telefono perché ha sentito odori di zona rossa e ha detto ma io perché mi devo inguaiare il mio... Mercoledì sera 6 gennaio 2021, a.k.a. l'Epifania. Vodafone, servizio di segreteria. Niente. Allora, possiamo tornare indietro su una compagna che non ci ha risposto. Nel frattempo mi sembra di fare un remake di una puntata di luglio in cui la gente non ci ascolta, la gente non ci rispondeva mai. Nis, sentiti anche in diritto di dire qualcosa al microfono se vuoi, eh? No, Nis, un uomo tutto d'un pezzo, un compagno tutto d'un pezzo, non dice niente. Salverà questo podcast comunque come Guglielmo e Nis, Radio ZM, Zona Rossa, 6 gennaio 2021. Non risponde nessuno. Ma ragazzi, questi telefoni dove li avete? Attenzione, vuol dire qualcosa? Benvenuto nel servizio. È il momento giusto, Nis, ci ha dato la segreteria telefonica, vai. Niente. Ci ha provato, ha alzato il volume, ma poi ha vinto l'imbarazzo. Va bene, allora andiamo a cercare quest'altra persona. Lui è uno degli ultimi aggregati alla Radio ZM e fanno un programma che ovviamente è quello che ha già sostituito nei cuori di tutti, di tante, Zona Rossa. Questo perché Zona Rossa, come diceva giustamente prima il caro Francesco, è un programma demenziale, idiota, nato da una mente idiota, che è la mia e quella di Lorenzo, diciamolo, dovremmo dirlo. E quindi fa un po' schifo. Loro l'hanno preso, remixato, in realtà senza nemmeno fare riferimento a noi, nella loro testa c'era già qualcosa di più bello. E hanno fatto questa cosa bella che è fuori dal comune. Mi stavo perdendo nelle mie chiacchiere. Suona sempre, ma non viene risposto da nessuno. Maledizione, oserei dire. Nils, dimmi chi devo chiamare. Scrivi senza parlare su questo quaderno chi posso chiamare. E fammi chiamare qualcuno, maledizione. Qua la gente non risponde. Nome anche lontano da qui, posso chiamare anche tua zia, i tuoi parenti, i genitori, persone lontane, vicine. Dai, ci sta. È un evergreen, è vero, hai proprio ragione, è un evergreen. Qui non ci rispondono, la gente non ci richiama, siamo mai arrivati al punto in cui siamo troppo disprezzati per essere degni di una risposta, chiamiamo lui. Lui che si terrorizza quando gli chiedo di darmi una mano e arriva qui dicendomi cos'è che vuole dire, cosa dobbiamo fare insieme, cos'è che devo farti una mano. Comunque era qua oggi anche lui, eh? È passato poco fa. Ricordiamogli che doveva fare quel lavoro. Già, quel lavoro là. Sì, hai ragione. Quella cosa lì per cui mi doveva dare una mano. Ma anche lui, ma forse perché era di cena, dici? La gente sta mangiando alle 19.58, dai, ma cos'è? Impossibile. No, sono tutti impegnatissimi. Vero? Benvenuto nel servizio. Servizio segreteria. Nils, io ho paura che tu non ti si senta, ma forse sì. Allora... così? Pensavo che sono tutti impegnatissimi in questa Madonna, data di Epifania. Madonna, come sono presi durante l'Epifania. Non lo so, chi possiamo chiamare? Non so, fatti venire un'idea ottima, ma non dirla a chiunque. Vabbè, potremmo chiamare lui, dai, facciamo questa cosa. No, ma poi lui si scivola sempre nel difficile. Perché non ho il suo numero, non lo so. Ah, ma sì, ma certo, ma so chi dobbiamo chiamare. Tra l'altro, tu con la tua presenza mi dovevi suggerire cosa? D'Argent Amico, vuoi sentire D'Argent Amico? Ma veramente? Sì. Tanto c'è ancora tutta questa cosa qua prima. C'è tutta questa traccia. Dai, rispondici, direttrice, maledizione. Dici qualcosa, dacci la direzione. No, mi sa che neanche lei risponde. Ma veramente siamo tutti quanti a dormire male? Cioè, porco Giuda. Ma come si fa? Non è che se abbassi quel microfono lì allora non si sente, perché questo microfono si sente ancora. Qui stai calmo. No, niente. A questo punto io vi voglio del bene. Andrò a mettervi una bella canzone, dai. anche se è una canzone che abbiamo magari già messo. Qua non risponde, fa niente. Niente, dai, vi mettiamo una bella canzone, la prendiamo da qui, che era una roba che magari non si era ancora sentita, e facciamo... No, questa qua mi piaceva molto. The Wailers, Sealer Down per voi, mentre nel frattempo ricarichiamo le batterie. Cosa è successo? Cosa è successo? Niente, non è successo passami niente. Passami il magico quaderno, please. Ah, ti passo il magico quaderno, please. Dai, ascoltiamoci questo brano musicale, nel frattempo cioè, ricarichiamo le batterie e troviamo con cui ci risponde al telefono. Ciao. Ringraziamo i Wailing Wailers, prima di aver incontrato, come cavolo si chiama, Bob Marley, erano questo gruppo, meraviglioso, fantastico, bellissimo, li ringraziamo, torneranno il mese prossimo solo per noi, penso che siano una band in realtà è fatta di gente che in questo momento probabilmente sarà anche morta, perché, insomma, che aveva 40 anni quando è morto Bob Marley, adesso ne avrebbe 40 di più, ne avrebbe circa un'ottantina, per cui, solo sì, un'ottantina, ormai saranno belli candidati anche i suoi soci dei Wailers. Va bene, stiamo chiamando un altro compagno su richiesta e suggerimento del compagno Nils, però ci risponderà? Non ci risponderà anche lui? Ma cosa state facendo tutti quanti alle 20.02? Si preparano per la partita di stasera. Ma perché lui ti fa Milano Juve? Scaldano i muscoli. Sì, certo, giocatori di birra, giocatori al bancone. Scaldano le pance. Bababia. Risponde la segreteria telefonica. È ancora un'altra segreteria telefonica. Va bene, caro. Allora, secondo me, dato che sono già un po' che stiamo in onda e la gente non ci risponde e la cena è pronta, andiamoci verso la conclusione di questa fantastica puntata. Allora, a questo punto ti offro questo, anche a te, Nils. Tre momenti, tre situazioni. La prima, sono 30 secondi a braccio in cui tu devi cercare di insultare Lorenzo Picarazzi senza dire parolacce. La senti così, proprio pronti via? Dai, vai! Sì, penso che sia proprio una cosa che possa uscire dall'orifizio più basso senza difficoltà, come quando la mattina ti svegli, bevi il caffè, bevi la sigaretta, scivola fuori qualche cosa che lascia proprio... Segno. Il segno, esatto, come il fango sugli stivali o sui pantaloni quando cammini in mezzo alla foresta, che piove, e tu urli al cielo, le migliori imprecazioni, ecco. In quel momento lì compare un pica. Ah. Uh-huh. Bello. Non so di quanti secondi mi siano rimasti. Ma una decina, vai. Una decina di secondi. Allora vorrei dirgli grazie per essere il miglior fango secco sui miei pantaloni. Complimenti. È uno stile teutonico, oserei dire, germanico. Complimenti davvero, caro Snello. A questo punto, dato che mi hanno lasciato da solo a condurre stasera, io ti faccio questa domanda. Quando è che ti hanno lasciato da solo l'ultima volta? Tutti i cazzo di giorni. Addirittura. Come mai sei così solo, carissimo? Che è successo? Beh, un po' mi ci trovo anche abbastanza bene. Ah, ok. È la tua antisocialità che parla. Sì, asocialità. Io non a caso frequento i centri asociali. Finalmente. Nell'altra dimensione speculare a questa, i centri sono sociali, sono asociali, raccolgono gente che vuole stare da sola. Molto bello, interessante. Invece... Futuro, amico mio, futuro. Ma veramente, a proposito di futuro, bravissimo. Ma se tu domani ti svegliassi in un'utopia comunista, comunitaria, accelerazionista, dove vengono sostituite parti del corpo gratuitamente, tu che cosa ti faresti cambiare? Cos'è che avresti detto? Parte sotto la rap caverna posse? Ottima domanda. Credo che mi farei cambiare le punte delle dita. Ma proprio cioè delle mani o dei piedi? Delle mani. Le mani, per come mai? Perché sono fondamentali per fare qualsiasi cosa, dalla più piacevole alla più spiacevole, e se per qualche malugurato motivo dovessi trovarmi senza, sarei in difficoltà. Quindi sono le dita, dici, sì, due belle dita in titanio, bravo. Che massimo se me le spaccano me le rimetto, tu quella prima. Bello, non è male. Poi ci sei in un futuro super cyberpunk, alla fine è tutto tastiere digitali, così le dita servono. Anche questo è vero. Va bene, allora a questo punto, come ha lanciato il buon Picarazzi, chissà su indicazioni di chi e per come e perché di partire da sé, anche da noi durante queste trasmissioni Radio ZM, e quindi le domande che poniamo agli altri, alle altre le poniamo anche a noi stessi, io faccio i miei 30 secondi di insulti a Lorenzo. Lorenzo, tu vieni da Novara, non sei il re del cielo che viene piangendo in una grotta, sei tendenzialmente una persona per cui la mia buona memoria per i volti e i nomi per una volta farà un'eccezione. Tu sei quella persona che al buio non cerca la luce, tu sei uno di quelli a cui piacciono i problemi perché non li sa risolvere, per cui non ha senso avere problemi per lui perché li risolverà qualcun altro per lui. Tu sei essenzialmente bravo, no, questo non è non è una parolaccia, però comunque bisognerebbe cercare di fare un giro di parole per spiegargli, Lorenzo, se tu non ci fossi forse sarebbe tutto quanto uguale, se tu avessi una vita eterna probabilmente molte persone si dimenticherebbero di te e via di questo passo. Credo di aver già scontato qualche secondo, buon Lorenzo, ma ci basta perché tutto sommato li vogliamo comunque bene, così come si vuole bene a un cucciolo di cane monco di una zampa e senza un occhio e senza la lingua e con la coda un po' tutta ingarbugliata e cespugliosa. Sei carino, batuffoloso quando sei su un tavolo fermo, immobile, così va bene, se ti muovi e parli già un po', grazie Lorenzo per tutto quello che fai per noi. Poi, ma gli staranno fischiando le orecchie? Ma spero di sì, anche perché in questo momento avrà addosso delle cuffie che se gli fischia le orecchie gli vanno anche fastidio, speriamo. Detto questo, per quanto riguarda la solitudine, stasera è stata una bella solitudine, e no, anche quest'anno comunque quando andavo a lavorare fuori città per un po', vivevo quella bella solitudine serale, senza compagni, compagnie, gente a conquistare, e quindi era un po' una noia mortale dover inventarsi come riempire il tempo. Pur di non stare con me stesso, che sono una brutta compagnia. Se invece fossi in un futuro accelerazionista dove il comunismo comunitarista ha vinto, io mi farei impiantare in qualche modo maniera una schiena, sì, con qualche materiale ferroso potentissimo, perché essendomi bloccato alcune volte con la schiena nella mia vita ho capito quanto sia fondamentale non bloccarsi con la schiena. Per cui non lo so, dei bei pistoni in acciaio inossidabile al posto dei muscoli della schiena, piuttosto che una bella spina dorsale in anelli di titanio, che così non si blocca mai. Ma guarda, anche soltanto che conservi naturalmente tutte le mie cose, ma quella roba lì non ci deve più essere. Per cui, non so, una specie di leverino elettrico che si cambia il motore, sono come prima, una roba del genere piacerebbe molto. Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra fantastica storia. A questo punto noi potremmo provare a prendere una... come va? Musica classica. Dai, buttiamoci qui, cosa c'è di buono? Facciamo una bella cosa, anzi facciamola da qua. Seguiremo il consiglio della carnissima Pesce. Metteremo Nocturne, dovrebbe essere, di un compositore famoso, Chopin. Notturno in B minore, opera 9, numero 1. vi lasceremo con questa bella traccia, sono 5 minuti in cui vi rilasserete in questo 6 di gennaio 2021, sperando che la pandemia un giorno molli queste terre e questa terra ci lasci in pace a cercare di distruggere il capitalismo e il patriarcato e tutte le altre forme di vessazioni, e senza dare delle comode scuse a chi ci governa per poterci segregare ancora di più, così andava detto. Va bene, cari e care, buona serata a tutti e tutte, compagno Snils. Un caro saluto a tutti, auguro molta più solitudine per quest'anno a ciascuno di voi e mi auguro che sia vissuta fino in fondo. Bene, capiremo più avanti il perché di questo augurio. Carissimi tutti, ciao e tutte, ciao.